al generale Jaruzelski, che nel frattempo è diventato presidente della Polonia, gli consegnò dei faldoni con documenti, e appunto questi documenti, che contenevano tutti i nomi di questi prigionieri, contenevano anche appunto una lettera firmata di pugno da Stalin in cui si diceva appunto che questa gente doveva essere eliminata. Però ecco, per tutti questi anni questo tema fu tabù. In Polonia i familiari di queste persone, che furono date per scomparse, non potevano assolutamente parlare di questa questione. Chi ne parlava veniva appunto accusato di propaganda antisovietica, e anche all'estero, comunque, su Katyn si giocò una battaglia molto forte, perché bisogna ricordare che al processo di Norimberga gli inglesi soprattutto tentarono di mettere all'interno del processo di Norimberga anche questo crimine, nel senso che gli inglesi, volendo dare ragione ai russi, tentarono di portare questo crimine come un crimine ascrivibile ai nazisti, e lì invece gli americani si rifiutarono, e infatti poi appunto su questa cosa ci fu un braccio di ferro, e il crimine appunto di Katyn comunque non rientrò nella lunghissima lista di delitti ascrivibili ai nazisti. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera ripercorre i tragici fatti che hanno portato all'omicidio di Martin Luther King. Era il 4 aprile del 1968 quando alle 6:01 del pomeriggio un colpo di arma da fuoco mette fine alla vita del leader della campagna per i diritti civili, di un uomo che rappresentava la speranza per milioni di afroamericani. 4 aprile 1968, Memphis, Tennessee. Le 6:15 del pomeriggio. Il leader del movimento per i diritti civili, Martin Luther King, viene portato in ospedale dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco. King è una figura di spicco, nota in tutto il mondo per la sua ispirata leadership del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Ma nella grande lotta per garantire pari diritti alla comunità nera d'America, specialmente nel profondo sud, King si è anche guadagnato l'odio di diversi gruppi di violenti razzisti bianchi che disprezzano lui e le sue idee. Lo considerano una minaccia al loro modo di vivere. Vogliono toglierlo di mezzo, ma lo odiano a tal punto da essere disposti a ucciderlo. 3 aprile 1968, Atlanta, ore 12. King vola a Memphis e prende una stanza al Lorraine Motel. È in città per dare il proprio sostegno a un gruppo di netturbini neri. Segue il loro caso fin da febbraio, quando sono entrati in sciopero, chiedendo stipendi più dignitosi e condizioni di lavoro più umane. Ora King è determinato ad aiutarli e a vincere la loro battaglia. Quella sera King visita il Mason Temple, dove pronuncia un discorso potente, come nel suo stile, e stranamente profetico. Come tutti, vorrei vivere una lunga vita. La longevità ha la sua importanza, ma questo ora non mi interessa. Voglio solo fare il volere di Dio. E Dio mi ha permesso di salire sulla montagna. E di là ho guardato e ho visto la terra promessa. Forse non ci arriverò insieme a voi, ma questa sera voglio che sappiate che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa. E questa sera sono felice. Non ho paura di nulla e di nessuno. I miei occhi hanno visto la gloria del Signore che viene. È uno dei più famosi discorsi di Martin Luther King, ma il suo tono lascia pensare a una minaccia di morte ricevuta di recente. Figlio di un pastore protestante, Martin Luther King Jr. nasce ad Atlanta, Georgia, il 15 gennaio del 1929. All'età di 24 anni, diventa pastore della Chiesa Battista di Montgomery, in Alabama. La cittadina di Montgomery diventa famosa in tutto il mondo nel dicembre del 1955, quando Rosa Parks, una donna di colore di 42 anni, si rifiuta di cedere il suo posto sull'autobus a un uomo bianco. In base alle cosiddette leggi di Jim Crow, Rosa Parks viene arrestata, processata e condannata a pagare una multa di $10 e $4 di spese. e il suo caso suscita profondo sdegno, non solo negli stati del Sud, ma in tutta la comunità nera degli Stati Uniti. Proprio a Montgomery, King decide che il suo popolo ha subito abbastanza. Il caso di Rosa Parks è solo l'ultima di una lunga serie di umiliazioni e violenze dello stesso genere. Così organizza il boicottaggio degli autobus di Montgomery. Per 13 mesi tutti i neri si rifiutano di viaggiare sugli autobus della città. Il caso si risolve il 13 dicembre del 1956, quando la Corte Suprema decide che le leggi segregazioniste dello stato dell'Alabama sono incostituzionali. 7 giorni dopo, King viaggia a bordo di un autobus seduto nei sedili anteriori, i quali tradizionalmente erano sempre stati riservati ai bianchi. Ormai è un personaggio noto in tutto il paese, un fiero sostenitore della non violenza, deciso a guidare il movimento per i diritti civili in rapida espansione in America sotto l'egida della Southern Christian Leadership Conference. Oratore potente e appassionato, lavora instancabilmente in difesa della comunità afroamericana. E intanto, mentre la statura politica di King cresce sempre di più, un uomo viene scarcerato dal penitenziario di Leavenworth, in Kansas. James L. Ray, un delinquente abituale, ha soggiornato in varie prigioni per gran parte della sua vita. Dopo essere stato congedato dall'esercito nel dicembre del 1948 per inettitudine e mancanza di adattabilità al servizio militare. Nell'esercito, tuttavia, qualcosa ha imparato a usare un fucile. La vita di Ray non potrebbe essere più diversa da quella di King. Ma un giorno i loro destini si incroceranno in modo drammatico. Se la comunità nera d'America considera Martin Luther King una guida, ci sono altri che in lui vedono una pericolosa minaccia. Nel 1961, convinto della presenza di infiltrati comunisti nel movimento per i diritti civili, il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, ordina di mettere sotto controllo i telefoni di King e di seguirlo ovunque vada. Martin Luther King sarà sorvegliato per 6 anni, ma nulla può arrestare la sua crescente influenza e il suo enorme impatto sulla società americana. 28 agosto 1963, Washington. King guida una marcia nella capitale della nazione, chiedendo lavoro e libertà. Il presidente John Fitzgerald Kennedy si era opposto alla manifestazione, pensando che potesse avere un effetto negativo sulla causa per i diritti civili, ma alla fine era stato persuaso dalla giusta causa. Malgrado le iniziali perplessità di Kennedy, la marcia, alla quale partecipano circa 250.000 persone, si svolge senza alcun incidente. Quella stessa sera King, sui gradini del Lincoln Memorial, pronuncia un discorso che elettrizza l'intera nazione. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Ho un sogno che un giorno sulle colline della Georgia i figli di coloro che furono schiavi e i figli di coloro che possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Ho un sogno che i miei 4 figli vivranno un giorno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per il loro carattere. Oggi io ho un sogno. Quel discorso consolida la già grande reputazione di King. Anche il presidente Kennedy, che di lì a poco sarebbe stato assassinato, si congratula con lui. Ma qualcuno, e in particolar modo il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, è allarmato dal successo di King e vuole screditarlo. 2 luglio 1964, la Casa Bianca, Washington. Martin Luther King arriva per essere testimone di un evento storico. E il nuovo presidente, Lyndon B. Johnson, firma il rivoluzionario Civil Rights Act. La segregazione razziale è messa fuori legge in tutti gli Stati Uniti. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice in our beloved country. Ma moltissimi irriducibili sudisti considerano quella legge e il ruolo svolto da King come qualcosa di inaccettabile. Si oppongono fortemente all'emancipazione degli afroamericani, esattamente come i loro padri si erano opposti all'abolizione della schiavitù un secolo prima. Gli schiavi svolgono un ruolo vitale nell'economia del paese fin dalla metà del XVIII secolo, in particolare nel sud, dove lavorano nei campi di cotone e di tabacco. Ma nel 1865 la guerra civile americana pone fine a quella vergogna quando il nord, guidato dal presidente Abraham Lincoln, sconfigge le forze del sud, liberando il paese dalla schiavitù. Gli afroamericani continuano a lavorare nei campi e a svolgere altre mansioni umili, ma almeno sono liberi. Scandalizzati da questo cambiamento, pochi anni dopo alcuni suprematisti bianchi fondano il Ku Klux Klan, un'organizzazione dedita a perseguitare gli afroamericani anche in modo violento. All'inizio degli anni 60 il gruppo scivola nell'anonimato, ma il risentimento dei razzisti bianchi rimane lo stesso. Ora devono accettare il fatto che il Civil Rights Act pone neri e bianchi sullo stesso piano. Per loro, la colpa di tutto questo è di un uomo in particolare, Martin Luther King. King incontra sempre maggiore ostilità e violenza ovunque vada. La sua vita è costantemente minacciata e la tensione sale. 10 dicembre 1964, Norvegia. La statura morale di King trova il suo giusto suggello. Gli viene conferito il premio Nobel per la pace. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. 23 aprile 1967. Un uomo fugge dal penitenziario di Stato di Jefferson City dopo aver scontato 7 dei 20 anni che gli erano stati comminati per rapina. Si chiama James Earl Ray e da lì a poco diventerà famoso per aver sparato a Martin Luther King. 4 aprile 1968, Memphis. James Earl Ray, usando il falso nome di John Willard, si stabilisce in un alloggio per senza tetto a South Main Street. Lorraine Motel, Memphis, prime ore della sera. Martin Luther King è solo, sul balcone della sua stanza, mentre i suoi compagni si trovano all'interno. Non sa di essere osservato da un uomo, deciso ad ucciderlo. Improvvisamente si ode uno sparo e King crolla a terra. Il reverendo Samuel Kiles ricorda il tragico evento. Quando mi guardai intorno, non vidi altro se non la metà inferiore del corpo del dottor King. Il colpo lo aveva fatto cadere all'indietro e riuscivo a vedere solo le sue gambe. Ricordo distintamente che lo guardai, ma non mi pare che osai toccarlo. Lo guardai. E ricordo bene quel momento. Lo fissai e notai che il colletto della camicia e la cravatta erano stati tagliati di netto. C'era una ferita tremenda nel punto in cui il proiettile era entrato. King giunge all'ospedale di St. Joseph 15 minuti dopo essere stato colpito a morte. Intanto la polizia accorre al motel. I medici prestano le prime cure a King, ma non c'è niente che possano fare per salvarlo. Ha riportato una ferita troppo grave e muore meno di un'ora dopo. La polizia fa irruzione al Lorraine Motel e ispeziona l'area circostante. A quanto sembra, l'arma usata è un fucile e l'assassino ha sparato dal ricovero per senza tetto di fronte al motel. Il killer ha sparato da un bagno, la finestra è aperta e ci sono delle impronte sul pavimento. Una donna riferisce di aver visto un uomo scappare dallo stabile intorno alle 6 del pomeriggio. L'uomo si è disfatto di un grosso pacco, gettandolo sulla soglia di un negozio, per poi salire a bordo di una Mustang bianca e partire a tutto gas. Il pacco recuperato contiene diversi oggetti, tra cui due lattine di birra, un binocolo, munizioni e vari attrezzi, tra cui un martello, una radio portatile e un fucile Remington 760 Game Master dotato di un mirino telescopico. Il fucile è stato venduto da un negozio di Birmingham, in Alabama, e a comprarlo 6 giorni prima è stato un uomo, tale Harvey Lomeyer. Ma le impronte digitali rinvenute sull'arma rivelano che a impugnarlo è stato un quarantenne evaso di prigione, James Earl Ray. Ora è l'uomo più ricercato d'America. 4 aprile 1968, Memphis. La notizia dell'assassinio di Martin Luther King provoca violenti disordini. le violenze si propagano in molte città degli Stati Uniti e i saccheggiatori approfittano della situazione sempre più caotica. Durante la notte, 4.000 uomini della Guardia Nazionale vengono inviati a Memphis per aiutare la polizia, che ha perso il controllo della situazione. Viene proclamato il coprifuoco dal tramonto all'alba per tentare di scongiurare ulteriori disordini. 5 aprile 1968, Washington. Il presidente Lyndon B. Johnson esorta la nazione alla calma. Chiedo ad ogni cittadino di rifiutare la stessa cieca violenza che ha colpito King. Johnson sa fin troppo bene che per evitare che il paese si spacchi in due è necessario catturare l'assassino, e ciò deve essere fatto in fretta. La polizia si lancia in una delle più intense caccia all'uomo della storia. Una taglia di $100,000 pende ora sulla testa dell'assassino di Martin Luther King. Nel frattempo, Ray raggiunge Atlanta, dove abbandona l'automobile. Subito dopo parte per Toronto, in Canada. 8 aprile 1968, Memphis. Migliaia di persone si mettono in fila per rendere omaggio al feretro di Martin Luther King. Con eccezionali misure di sicurezza, la salma viene quindi portata nella città natale di King, Atlanta. 9 aprile 1968, Atlanta. È il giorno dei funerali di Martin Luther King e non si può non ricordare con amarezza il pragmatismo con il quale il leader nero considerava possibile il suo assassinio. Sono abbastanza realista da sapere che rischio una morte violenta. Vivo ogni giorno sotto minaccia di morte, non mi faccio illusioni in merito. Ci sono abbastanza menti malate nel mondo da farmi correre questo rischio, come è già capitato in passato ad altri leader. Ma tale pensiero non mi spaventa affatto. Non è possibile fare il proprio lavoro se giorno dopo giorno si è occupati a temere la morte. 7 maggio 1968, aeroporto di Heathrow, Londra. James Earl Ray sbarca da Toronto. Poche ore dopo vola a Lisbona, in Portogallo. 10 giorni dopo, Ray torna a Londra e affitta una stanza a Earl's Court. 8 giugno 1968, aeroporto di Heathrow, Londra. Ancora una volta Ray è in viaggio. Ma quando sta per imbarcarsi su un volo diretto in Belgio, un agente lo riconosce. Ray è arrestato e accusato del possesso di un passaporto falso e di un'arma da fuoco senza porto d'armi. Dopo un lungo iter burocratico, Ray viene estradato negli Stati Uniti e chiuso in una cella speciale in attesa del processo. 10 marzo 1969, Memphis. Protetto da un apparato di sicurezza senza precedenti, finalmente Ray appare in aula, dove è accusato dell'omicidio di Martin Luther King. Per evitare la probabile condanna a morte, Ray ammette di aver ucciso King, aggiungendo di avere agito da solo. Gli viene inflitta una pena di 99 anni di reclusione. Lo difende il leggendario avvocato texano Percy Forman. Non sono stato io a persuadere James Earl Ray a dichiararsi colpevole. Ray preferiva vivere ed evitare la condanna a morte. Pensava che sarebbe stato giustiziato. In caso di condanna a morte non avrebbe potuto salvarsi. Da un penitenziario invece avrebbe sempre potuto sperare di evadere. 3 giorni dopo, tuttavia, Ray ritratta la sua ammissione di colpevolezza. Afferma di essere innocente e chiede che sia istruito un nuovo processo, ma nessuno gli dà ascolto. La pratica cade nel dimenticatoio. Poi, nell'agosto del 1978, Ray compare davanti al comitato speciale che indaga sugli assassini del presidente Kennedy, suo fratello Robert e Martin Luther King. Si dichiara innocente e afferma di essere stato incastrato da una gang messicana e che al momento dell'omicidio non si trovava neanche nelle vicinanze del luogo del delitto, ma al centro di Memphis, in un garage, a riparare uno pneumatico. Racconta che si era spaventato dalla presenza della polizia ed era fuggito. Sapeva che se fosse stato fermato, sicuramente sarebbe emersa la sua identità di evaso. Il comitato non sembra convinto. Ma tutti sembrano concordare su un fatto: Ray non ha agito da solo. credono che sia stato coinvolto nell'assassinio da un gruppo di estremisti di destra, decisi a eliminare King. Malgrado le continue richieste da parte del Movimento dei Diritti Civili, i documenti delle indagini del Comitato non possono essere resi pubblici, essendo segretati fino al 2029. Per anni, la vedova di Martin Luther King, Coretta, ha continuato a chiedere risposte. Voglio chiarire che non mi interessa alcuna forma di vendetta o di punizione. Per nessuno. Voglio solo conoscere la verità. Si parla apertamente di un insabbiamento da parte del governo. Per il reverendo Ralph Abernathy, attivista dei diritti civili, nessuno è al di sopra di ogni sospetto. Credo che fu ucciso nel quadro di una cospirazione. Le forze maligne di questo paese, nelle più alte sfere, l'FBI di Hoover, che odiava il dottor King, quelle forze decisero che il dottor King si era spinto troppo in là perché stava organizzando la campagna della povera gente. Stava unendo neri e bianchi, olivastri, rossi e gialli, tutti insieme. Era una cosa troppo potente per poter essere tollerata negli Stati Uniti d'America. Secondo lo storico e scrittore Christopher Andrew, il segregazionismo negli Stati Uniti era anche l'ultima cosa che voleva il KGB, il servizio segreto sovietico. I sovietici volevano la guerra razziale negli Stati Uniti. Così, a metà degli anni 60, iniziarono a mettere in atto una serie di misure per screditare Martin Luther King. Si tratta di un tema molto complesso. I sovietici intendevano pubblicare degli articoli sulla stampa nera che descrivessero Martin Luther King come uno zio Tom. Volevano produrre false prove che attestassero che era al soldo del presidente Lyndon Johnson. A fare annullare quei piani fu il fatto che, con grande sollievo dei sovietici, nel 1968 Martin Luther King fu assassinato. Accolsero la notizia con gioia, perché King era l'unico uomo in grado di impedire che le lunghe estati calde si allungassero e scaldassero ulteriormente. Così King divenne un martire delle sinistre cospirazioni dei razzisti della destra americana. 23 aprile 1998, penitenziario di Brushy Mountain, Tennessee. James Earl Ray muore all'età di 70 anni a causa di complicazioni legate a una malattia ai reni. Per tutta la vita ha continuato a dichiararsi innocente dell'assassinio di Martin Luther King. Quattro mesi dopo, non placandosi le voci riguardanti un insabbiamento delle indagini, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti apre un'inchiesta di revisione del caso. Nel giugno del 2000, dopo aver esaminato tutti gli elementi disponibili, il Dipartimento di Giustizia conclude con un rapporto di 138 pagine che non esiste alcuna cospirazione sulla quale indagare. Secondo il Dipartimento, Ray ha agito da solo. Nessuno si è mai chiesto se l'assassino sia stato manipolato da altri. E il rapporto si conclude così. Le domande e le ipotesi continueranno, probabilmente, a circondare il caso dell'assassinio del dottor King e altre tragedie nazionali. In altre parole, tutta la verità sulla morte di King e sul ruolo di Ray probabilmente non sarà mai rivelata. Finché è stato in vita, Martin Luther King ha ispirato un'intera generazione di afroamericani. Poi, quando i diritti civili sono diventati legge nel 1964, il ruolo di radicale riformatore di King ha assunto una rilevanza minore. Martin Luther King sarà sempre ricordato dagli afroamericani come l'uomo che cambiò per sempre le loro vite, pagando in prima persona il prezzo più alto. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel martedì 10 marzo alle 21. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.